A bordo campo di Dario Ricci. Dal profondo del tempo, come un rimpianto, ora rinasci tu, quel sorriso sgomento, anche se vinto, non mi tormenta più. La Gazzetta dello Sport di martedì 18 settembre titola nelle pagine dedicate alla Lombardia in questo modo: buona notizia, modificato il regolamento di polizia urbana, abolito un divieto degli anni 30, il titolo. I cortili riaprono al calcio dei bambini. Via libera del comune di Milano, svago anche negli spazi condominiali. Una buona notizia, giustamente, come sottolinea il collega che redige l'articolo, Manlio Gasparotto, si torna a giocare a calcio nei cortili e sappiamo quanto i campioni spesso nascano lì, ma soprattutto da lì tragga origine il vero divertimento e la vera semplicità del calcio. Beh, non ci crederete, a leggere questo titolo mi è venuto in mente un campione della mia infanzia, dell'infanzia di molti, che non se n'è mai andato via dal nostro cuore, dalla nostra testa, e che in questi giorni ritorna prepotentemente alla ribalta nel modo più bello. Beh, quel campione era ed è Agostino Di Bartolomei. Immagino che una notizia del genere faccia pensare ancora di più ad Ago, a chi gli è stato davvero tanto vicino. Vero Luca Di Bartolomei, benvenuto a Radio 24 e a bordo campo. Grazie Dario, buonasera e buonasera a tutti. Si torna a giocare nei cortili e uno pensa a Di Bartolomei, no? Beh sì, assolutamente, credo che sia una notizia meravigliosa, perché poi i cortili, come gli oratori, come la scuola, sono quelle le prime forme di aggregazione in cui i giovani si trovano a relazionarsi con gli amici, con le persone che naturalmente condividono con loro spazi di gioco quotidiani. Ed è probabilmente in quei cortili, in quegli oratori, negli spazi delle scuole che poi nasce quel calcio che è davvero puro. Il calcio che non conosce infringimenti del fallo tattico, delle piccole cose che magari si insegnano quando si è un po' più grandi. Forse è un po' il calcio che Ago racconta e che vuole raccontare nel manuale del calcio. Eh sì, il manuale del calcio, è questo il modo in cui Agostino Di Bartolomei, il capitano della grande Roma, e per noi che siamo intorno agli Anta, la grande Roma è quella dell'82-83, la Roma di Lidolm, di Conti, di Pruzzo e di Agostino Di Bartolomei, di Falcao, quella Roma che seppe rivaleggiare e rompere in quell'anno straordinario l'egemonia della Juventus. Era la Roma di Dino Viola che a parola in punta di fioretto, ma con un acume straordinario punzecchiava e veniva punzecchiato da Giampiero Boniperti. Beh, il calcio di 30 anni fa, quest'anno saranno 30 anni da quello scudetto, ed è l'anno giusto, direi, per lanciare questo manuale del calcio, edito da Fandango Libri, autore il capitano di quella grande Roma, Agostino Di Bartolomei. Luca, so che questo libro che adesso viene pubblicato ha una storia del tutto particolare, perché per un certo punto se n'è conosciuta una parte e poi quasi casualmente, aprendo un cassetto, è spuntata un'opera completa, no? Beh sì, di fatto sì, perché noi conoscevamo gli appunti e sapevamo che Ago avesse redatto un manuale che era un po', diciamo così, a metà, un 50-60%, e ti dico con onestà Dario, nessuno di noi si sarebbe mai azzardato a mettere le mani su un'opera di Ago, conoscendo quale meticolosità impiegava nelle cose che scriveva e nelle cose che faceva. Quindi poi, quando circa 9 mesi fa abbiamo trovato in uno scatolone, era proprio in realtà uno scatolone, questa copia finita, da una parte c'è stata la gioia assoluta, perché potevamo, diciamo, in piccolo concludere un suo desiderio. Dall'altra parte ci è venuta anche l'idea di concluderlo probabilmente in un modo che ad Ago avrebbe fatto enormemente piacere, cioè quello di ridare qualcosa di tutto l'affetto che avevamo ricevuto in questi anni dalle persone, dagli amanti di sport, dai tifosi di Ago, e cioè facendo qualcosa di buono per per la città, aiutando questo progetto meraviglioso che è il calcio sociale, che è una società sportiva che lavora con i ragazzi, che fa sport con i ragazzi con disabilità psichiche e fisiche, e che in questo momento sta ristrutturando il proprio centro sportivo e ha bisogno dell'aiuto di tutti. Eh sì, direi proprio che è un gol che anche il grande Ago avrebbe segnato più che volentieri. Il calcio è uno sport collettivo che oppone due squadre di 11 giocatori una contro l'altra, si svolge in due tempi di 45 minuti l'uno e con molta semplicità si può giocare dovunque, in piazza, in strada, su un prato. Basta avere quattro sassi per fare due porte e un pallone ben gonfio. Scrive così Agostino Di Bartolomei, e non a caso il sottotitolo di questo manuale del calcio è "Il calcio è semplicità", proprio perché c'è questa idea di semplicità che poi porta con sé attraverso queste pagine e le straordinarie illustrazioni che le accompagnano, è vero Luca? Perché Davide Riviati ha fatto un lavoro incommiabile ed eccezionale nell'interpretare il pensiero di Agostino. Sì, ti devo dire, le illustrazioni di Davide personalmente mi hanno commosso e hanno toccato davvero, credo, un po' quella che era l'anima di Ago e quella che è stata anche il suo modo di vedere il calcio come insegnamento nei confronti dei ragazzi, ed il piacere di insegnare e il piacere di giocare per divertirsi. Appunto, quando Ago dice che il calcio è allegria, è la pura verità, ed è allegria sia che due squadre si affrontino all'Olimpico, sia che si affrontino in un campo di periferia dove non c'è la rete, non c'è l'erba, non c'è lo stilema classico del calcio professionistico. Campione di poche parole Di Bartolomei, che amava parlare soprattutto nei momenti chiave, visto il suo ruolo, visto la sua capacità di pesare le parole. Allora abbiamo ritrovato proprio un frammento di una sua intervista con Giampiero Galeazzi dopo un 5-2 al Napoli all'Olimpico, partita che lanciò quella Roma verso la conquista di quello scudetto. Vale proprio la pena di sentirle le parole di Ago. A questo punto penso che è proprio l'inno della Roma oggi, 5 gol a Napoli, giocando un gran secondo tempo anche a parte del primo. Ma diciamo che li abbiamo prima mandati in vantaggio, prima di poter esprimere il nostro gioco come sappiamo e come dobbiamo fare ogni domenica da qua alla fine. Speriamo, adesso siamo la lepre, speriamo, dobbiamo ancora accelerare domenica a Cesena, poi vediamo. È aumentato il vantaggio sulle dirette avversarie, io penso che questo non è un campionato che la Roma non può vincere o può perdere, è il campionato della Roma. Ma comunque speriamo che, come dici tu, lo sia fino in fondo, ma ci vuole tanta abnegazione ancora e tanta umiltà. Ecco Luca, ultima parola di Agostino in questa intervista, umiltà. Direi che lui ne ha fatto una bandiera di vita, un motto e una strada maestra da seguire, perché raramente sopra le righe. Ma quante ammonizioni ci ha avuto in carriera, papà? Non, sinceramente quante ammonizioni non lo so, credo non moltissime, però sì, sì. L'umiltà era un suo tratto, devo dire, dominante, ma credo che in realtà lui in quel senso di umiltà provasse anche, diciamo, una sorta di orgoglio di essere un po' di esempio. Ago ricordava sempre che ogni domenica potevano vederlo centinaia di migliaia di ragazzi e sentiva fortemente il dovere di dare un esempio, trasmettere un esempio positivo. Fa più un'immagine di un calciatore oggi come allora, probabilmente oggi molto di più, che fa un gesto scorretto di quanto non possano insegnare centinaia di maestri a scuola, centinaia di insegnanti ai licei o non nelle università. L'esempio è una cosa fondamentale e in questi 30 anni probabilmente nel calcio, come un po' anche nella società, sono mancati tanti esempi. Eh sì, insomma, provate ad andare un po' su YouTube, lo diciamo soprattutto ai più giovani, e a cercare le immagini dei festeggiamenti dei gol di Agostino Di Bartolomei, che tra l'altro c'aveva una castagna che oggi forse solo Ronald Koeman era paragonabile fino a qualche anno fa. Si alzava la mano quando si faceva gol, si applaudiva alla Sud e poi pallone sotto il braccio e tutti a centrocampo, altro che trenini, svolazzamenti e macarene varie, no? Sì, il calcio è anche giusto che sia trenino e macarena, nel senso che l'allegria deve essere naturalmente presente, è un gioco, è uno spettacolo, e l'importante è che non ci sia l'eccesso, perché comunque davvero riesce più a fare un esempio positivo una domenica di quanto purtroppo non riescono a fare a volte anni di lavoro, e siccome chi ha responsabilità, chi anche guadagna cifre importanti come guadagna uno sportivo che fa questo di professione, deve ricordarsi di avere anche un dovere di rispetto nei confronti del proprio pubblico, in particolare dei ragazzi e dei bambini. A bordo campo. Ricordati di me, mio capitano. Nascere un uomo, ora rinasci tu, quel sorriso sgomento, anche se hai vinto, non mi tormentare. Ancora insieme qui a bordo campo, ospite d'eccezione Luca Di Bartolomei, perché stiamo sfogliando insieme il manuale del calcio del grande Agostino Di Bartolomei. Beh, c'è un decalogo, no, che apre questo libro, lasciatemelo dire, straordinario ed emozionante. E avete raccolto intorno a questo progetto con la Fandango Libri le voci di tanti illustri cantanti, attori e soprattutto tifosi romanisti per raccontare anche questo decalogo. Allora, sentiamolo subito e poi lo commentiamo insieme, Luca, ok? Dal manuale del calcio di Agostino Di Bartolomei, il decalogo. Il calcio è un gioco di squadra e il successo dipende da tutti, anche dalle riserve. Impara le regole del calcio. Soltanto conoscendole perfettamente potrai esprimere al meglio il tuo talento. Non entrare mai in campo con l'intenzione di fare male a qualcuno. Divertiti, il calcio è allegria. Abbi il massimo rispetto nei confronti dell'arbitro e dei guardaline e accetta sempre le loro decisioni senza interferire. Alimentati in modo equilibrato. Nutrirsi bene non significa mangiare troppo, ma mangiare con criterio. Ricorda sempre che prima di essere un calciatore devi essere un atleta. La condizione fisica nel calcio è fondamentale. Il grande capitale di un giocatore è il suo corpo. Abbine cura e concediti il riposo necessario. Di ogni infortunio dovrai parlarne sia al massaggiatore che al medico della società. Non nascondere nulla, per piccolo che possa sembrarti l'inconveniente. Dopo l'allenamento, fai una doccia ristoratrice e asciugati bene. Tratta i tuoi piedi esattamente come un pianista di professione e cura le sue mani. Ricordati che il calcio è semplicità. Il manuale del calcio di Agostino Di Bartolomei. Fandango Libri. A volte per ricucire il filo della memoria basta un ago. Queste le 10 regole d'oro del calcio secondo Agostino Di Bartolomei. Beh, quella che ha colpito un po' la fantasia di tutti, anche questa indicazione a curare con attenzione maniacale il proprio corpo, no? Addirittura Agostino dà questa indicazione al giovane calciatore in erba di asciugarsi meticolosamente le dita dei piedi, perché quelle sono come, per un calciatore, sono come le mani di un pianista, no? Cura del dettaglio estrema, anche perché poi quel piede per Agostino era un'arma potentissima, visto la capacità di scagliare questi bolidi, no? Ma era anche un piede raffinato, tra l'altro. Sì, io sono molto affezionato anche all'idea del calcio come allegria e del calcio come sport di squadra in cui bisogna essere leali con se stessi e con gli avversari. Credo che forse molto probabilmente più che regole per un bravo calciatore sono regole per crescere in maniera sana con le persone che ti circondano. Eh sì, è sempre con il pallone sotto al braccio come il più fidato degli amici. Beh, vogliamo un po' ricordare che tipo di calciatore era Di Bartolomei, perché fin da quando io ero ragazzo c'era questo falso mito della sua lentezza, diciamo passo compassato, ma era anche e soprattutto un giocatore che faceva correre testa e pallone, quindi tutto sommato non gli serviva poi tanto la corsa fino a se stessa, se non sbaglio. Beh sì, lui scherzava dicendo che lo chiamavano Ermoviola, però è probabilmente, diciamo, lento lo era e lo riconosceva lui stesso, ma allo stesso tempo c'era una capacità di astrarsi forse un attimo dal campo e guardarsi come dall'alto, cioè l'idea del calcio come un'idea di geometrie perfette, la possibilità di far girare il pallone un po' come in questi anni ci ha meravigliato il Barça di Guardiola. E in effetti un po' questo, Ago era una persona e un giocatore in grado forse di leggere in quella Roma del suo maestro Lidl, era in grado di leggere la partita e riuscire a secondare quelle che erano i desiderata del mister Lidl. La Roma di Lidl e di Bartolomei, dei campioni che abbiamo già ricordato da una parte, dall'altra la Juventus di Platini, Boniek e Scirea. Beh, devo dire, punto di contatto fra due mondi così lontani erano proprio questi due capitani, no? Di Bartolomei e Scirea, a rappresentare questi due mondi vicini e simboleggiati proprio spesso dai loro silenzi, dalle loro parole così misurate. Ecco, che rapporto c'era tra i due? Papà t'aveva mai raccontato, c'era qualche episodio, perché la memoria porta naturalmente ad accostarli per molti aspetti. Beh sì, credo che sì, una sorta di vicinanza c'è sicuramente. Ago aveva un grande rispetto per la Juve, diceva sempre che dalla Juve bisognava prendere tutto il buono che c'era, e credo che forse se oggi si ritrovasse una normalità anche nel linguaggio che molti dirigenti usano, nelle decisioni che molti dirigenti della massima sede di calcio, una normalità va assolutamente ritrovata. Questo mondo coglione piace il campione quando non serve più. Se ci fosse più amore per il campione, oggi saresti qui. Sembrano due parabole che tendevano inevitabilmente ad allontanarsi, quella di Ago e quella del calcio postmoderno. Che ne pensi, Luca? Ma io non lo so, sono ovviamente molto felice del campo intitolato ad Ago, e penso però che se noi la guardiamo da un punto di vista laterale, non credo sia neanche giusto recriminare invece di Ago contro il calcio. Il calcio purtroppo fa dei torti e li fa a tanti ragazzi, li fa a tante persone che vengono dal calcio effettivamente sfruttate. Ago è stato molto fortunato perché nella sua vita è riuscito a fare una cosa meravigliosa come giocare a pallone, come diceva anche lui, essere pagato per fare questa cosa meravigliosa. Il calcio se ne è ricordato tardi? Non lo so, i suoi tifosi non lo hanno mai dimenticato, i tifosi di sport non hanno mai dimenticato Ago, e Roma non ha mai dimenticato Ago. Nel 2004, a 10 anni esatti dalla scomparsa, l'amministrazione volle dedicargli una strada. Io credo che sia anche sbagliato dire che in questi 30 anni tutto è peggiorato. In questi 30 anni molte cose sono cambiate, tante cose pessime sono in parte venute alla luce e da queste sono nate delle cose positive. C'è tantissimo da fare perché c'è veramente da fare un lavoro enorme, però un minimo di luce dobbiamo vederla e dobbiamo raccontarla, perché se no saremo senza speranza. Era il 30 maggio del 1994 quando Agostino Di Bartolomei, allora 39enne, decise di togliersi la vita, 10 anni esatti da quella notte incredibile e sportivamente maledetta della finale persa all'Olimpico contro il Liverpool. Ebbene, oggi lo ritroviamo nelle parole di Luca Di Bartolomei, suo figlio, e soprattutto in queste pagine del manuale del calcio. Ringraziandoti, Luca, ti chiedo: qual è il ricordo intimo che attraverso questo manuale ti lega ancora oggi ad Agostino? Mi legano due cose profondamente intime. La prima è quando guardo il colore del manuale, mi viene in mente i vecchi album Panini, che stranamente però io non ho mai avuto. E questo colore antico mi fa ricordare alle giornate passate sul campo con Ago insieme a tanti altri ragazzi. Il calore di quel sole lo rivedo molto in questo giallo che c'è sulla copertina. E dall'altro lato trovo profondamente importante. Ricordare Ago, ma facendo qualcosa nel suo nome, di bello ancora oggi. Quindi davvero io spero che il manuale possa essere venduto e possa portare, diciamo, anche a conoscere una realtà meravigliosa come quella del calcio sociale, che ha bisogno dell'aiuto di tutti e che invito tutti quanti ad andare a vedere, a conoscere su internet e andare a vedere anche per chi ha la possibilità a Roma. Luca Di Bartolomei, grazie per essere stato oggi ospite di Radio 24 e A Bordo Campo, e buona fortuna e soprattutto grazie per questo splendido regalo, il manuale del calcio di Agostino Di Bartolomei, e buon calcio. Grazie a te Dario, grazie a tutti. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie davvero di cuore a Pietro Lacorte in regia. Potete contattarci alla nostra mail abordocampo@radio24.it, dialogare con noi attraverso il nostro blog e risentirci sul nostro sito internet www.radio24.it. L'appuntamento come sempre per domenica prossima alle 14.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci. Se ci fosse più amore per il campione, oggi saresti qui.